ad alta voce. Maria Paiato legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Il giorno seguente gli capitò una visita, quanto meno aspettata, tanto più gradita. Il signor marchese del quale si era parlato. Un uomo tra la virilità e la vecchiezza, il cui aspetto era come un attestato di ciò che la fama diceva di lui. Aperto, cortese, placido, umile, dignitoso e qualcosa che indicava una mestizia rassegnata. «Vengo», disse, «a portarle i saluti del cardinale arcivescovo». «Oh, che degnazione di tutte e due!» Quando fui a prender congedo da quest'uomo incomparabile che m'onora della sua amicizia, mi parlò di due giovani di codesta cura che erano promessi sposi e che hanno avuto dei guai per causa di quel povero Don Rodrigo. Monsignore desidera d'averne notizia. Son vivi? E le loro cose sono accomodate? Accomodato ogni cosa, anzi io m'era proposto di scriverne a sua eminenza, ma ora che ho l'onore si trovano qui e più presto che si potrà saranno marito e moglie, e io la prego di volermi dire se si possa far loro del bene e anche di insegnarmi la maniera più conveniente. In questa calamità ho perduto i due soli figli che avevo e la madre loro, e ho avute tre eredità considerabili. Del superfluo n'avevo anche prima, sicché lei vede che il darmi un'occasione di impiegarne, e tanto più una come questa, e farmi veramente un servizio. Oh, il cielo la benedica! Ma perché non sono tutti come lei? Basta, la ringrazio anch'io di cuore per questi miei figliuoli, e già che Vossignoria illustrissima mi dà tanto coraggio, sì signore, che ho un espediente da suggerirle, il quale forse non le dispiacerà. Sappia dunque che questa buona gente sono risoluti d'andare a metter su casa altrove e di vendere quel poco che hanno al sole qui, una vignetta il giovane di 9 o 10 pertiche, salvo il vero, ma trasandata affatto. Bisogna far conto del terreno, nient'altro. Di più una casuccia a lui e un'altra alla sposa. 2 topaie, veda! Un signore come Vossignoria non può sapere come la vada per i poveri quando vogliono disfarsi del loro. Finisce sempre andare in bocca di qualche furbo che forse sarà già un pezzo che fa l'amore a quelle 4 braccia di terra, e quando sa che l'altro ha bisogno di vendere si ritira, fa lo svogliato, e bisogna corrergli dietro e dargliele per un pezzo di pane, specialmente poi in circostanze come queste. Il signor marchese ha già veduto dove vada a parare il mio discorso. La carità più fiorita che Vossignoria illustrissima possa fare a questa gente è di cavarli da quest'impiccio comprando quel poco fatto loro. Io, per dir la verità, do un parere interessato, perché verrei ad acquistare nella mia cura un compadrone come il signor marchese, ma Vossignoria deciderà secondo che le parrà meglio. Io ho parlato per ubbidienza. Il marchese lodò molto il suggerimento, ringraziò don Abbondio e lo pregò di voler essere arbitro del prezzo e di fissarlo alto bene, e lo fece poi restare di sasso col proporgli che s'andasse subito insieme a casa della sposa, dove sarebbe probabilmente anche lo sposo. Trovarono appunto le 3 donne e Renzo. Come questi rimanessero lo lascio considerare a voi. Io credo che anche quelle nude e ruvide pareti e le impannate e i panchetti e le stoviglie si meravigliassero di ricevere tra loro una visita così straordinaria. Avviò lui la conversazione, parlando del cardinale e dell'altre cose con aperta cordialità e insieme con delicati riguardi. Passò poi a far la proposta per cui era venuto. Don Abbondio, pregato da lui di fissare il prezzo, si fece avanti. E dopo un po' di cerimonie e di scuse, e che non era sua farina, e che non potrebbe altro che andare a tastoni, e che parlava per ubbidienza, e che si rimetteva, proferì a parer suo uno sproposito. Il compratore disse che per la parte sua era contentissimo e, come se avesse frainteso, ripeté il doppio. Non volle sentir rettificazioni e troncò e concluse ogni discorso, invitando la compagnia a desinare per il giorno dopo le nozze al suo palazzo, dove si farebbe l'istrumento in regola. Già, diceva poi tra sé Don Abbondio tornato a casa, e se la peste facesse sempre e per tutto le cose in questa maniera, sarebbe proprio peccato il dirne male. Quasi quasi ce ne vorrebbe una ogni generazione e si potrebbe stare a patti d'averla, ma guarire beh. Venne la dispensa, venne l'assolutoria, venne quel benedetto giorno. I due promessi andarono con sicurezza trionfale proprio a quella chiesa dove, proprio per bocca di Don Abbondio, furono sposi. Un altro trionfo, e ben più singolare, fu l'andare a quel palazzotto. E vi lascio pensare che cose dovessero passar loro per la mente in far quella salita, all'entrare in quella porta, e che discorsi dovessero fare ognuno secondo il suo naturale. Accennerò soltanto che, in mezzo all'allegria, ora l'uno, ora l'altro, motivò più d'una volta che, per compir la festa, ci mancava il povero padre Cristoforo. Ma per lui, dicevan poi, sta meglio di noi sicuramente. Il marchese fece loro una gran festa. Li condusse in un bel tinello, mise a tavola gli sposi con Agnese e con la mercantessa, e prima di ritirarsi a pranzare altrove con Don Abbondio volle star lì un poco a far compagnia agli invitati e aiutò anzi a servirli. A nessuno verrà, spero, in testa di dire che sarebbe stata una cosa più semplice fare addirittura una tavola sola. Ve l'ho dato per un brav'uomo, ma non per un originale, come si direbbe ora. V'ho detto che era umile, non già che fosse un portento d'umiltà. N'aveva quanta ne bisognava per mettersi al di sotto di quella buona gente, ma non per restar loro in pari. Dopo i due pranzi fu steso il contratto per mano d'un dottore, il quale non fu la zecca Garbugli. Nel ritorno non ci fu altro inconveniente, se non che Renzo era un po' incomodato dal peso dei quattrini che portava via. Ma l'uomo, come sapete, aveva fatto ben altre vite. Non parlo del lavoro della mente, che non era piccolo a pensare alla miglior maniera di farli fruttare. A vedere i progetti che passavan per quella mente, le riflessioni, le immaginazioni, a sentire i pro e i contro per l'agricoltura e per l'industria, era come se ci si fossero incontrate due accademie del secolo passato. E per lui l'impiccio era ben più reale, perché, essendo un uomo solo, non gli si poteva dire che bisogno c'è di scegliere l'uno e l'altro alla buon'ora, che i mezzi in sostanza sono i medesimi. E son due cose come le gambe, che due vanno meglio d'una sola. Non si pensò più che a fare i fagotti e a mettersi in viaggio. Casa Tramaglino per la nuova patria e la vedova per Milano. Le lacrime, i ringraziamenti, le promesse d'andarsi a trovare furono molte. Non meno tenera, eccettuate le lacrime, fu la separazione di Renzo e della famiglia dall'ospite amico. E non crediate che con Don Abbondio le cose passassero freddamente. Quelle buone creature avevano sempre conservato un certo attaccamento rispettoso per il loro curato, e questo, in fondo, aveva sempre voluto bene a loro. Son quei benedetti affari che imbrogliano gli affetti. Chi domandasse se non ci fu anche del dolore in distaccarsi dal paese nativo, da quelle montagne, ce ne fu, sicuro, che del dolore ce n'è, sto per dire, un po' per tutto. Bisogna però che non fosse molto forte, giacché avrebbero potuto risparmiarselo stando a casa loro, ora che i due grandi inciampi, Don Rodrigo e il bando, erano levati. Ma già da qualche tempo erano avvezzi tutte e tre a riguardar come loro il paese dove andavano. Renzo l'aveva fatto entrare in grazia alle donne, raccontando l'agevolezze che ci trovavano gli operai e 100 cose della bella vita che si faceva là. Del resto, avevano tutti passato dei momenti ben amari in quello a cui voltava le spalle. E le memorie triste, alla lunga, guastan sempre nella mente i luoghi che le richiamano. E se quei luoghi sono quelli dove siamo nati, c'è forse in tali memorie qualcosa di più aspro e pungente. Anche il bambino, dice il manoscritto, riposa volentieri sul seno della balia, cerca con avidità e con fiducia la poppa che l'ha dolcemente alimentato fino allora. Ma se la balia, per divezzarlo, la bagna d'assenzio, il bambino ritira la bocca, poi torna a provare, ma finalmente se ne stacca, piangendo sì, ma se ne stacca. Cosa direte ora, sentendo che appena arrivati e accomodati nel nuovo paese, Renzo ci trovò dei disgusti belle preparati? Miserie, ma ci vuol così poco a disturbare uno stato felice. Ma si direbbe che la peste avesse preso l'impegno di raccomodar tutte le malefatte di costui. Aveva essa portato via il padrone d'un altro filatoio, situato quasi sulle porte di Bergamo, e l'erede, giovine scapestrato, che in tutto quell'edifizio non trovava che ci fosse nulla di divertente, era deliberato, anzi smanioso, di vendere anche a mezzo prezzo. Ma voleva i danari l'uno sopra l'altro per poterli impiegar subito in consumazioni improduttive. Venuta la cosa agli orecchi di Bortolo, corse a vedere. Trattò patti più grassi non si sarebbero potuti sperare, ma quella condizione de pronti contanti guastava tutto, perché quelli che aveva messi da parte a poco, a forza di risparmi, erano ancor lontani da arrivare alla somma. Tenne l'amico in mezza parola, tornò indietro in fretta, comunicò l'affare al cugino e gli propose di farlo a mezzo. Una così bella proposta troncò i dubbi economici di Renzo, che si risolvette subito per l'industria e disse di sì. Andarono insieme e si strinse il contratto. Quando poi i nuovi padroni vennero a stare su loro, Lucia, che lì non era aspettata per nulla, non solo non andò soggetta a critiche, ma si può dire che non dispiacque. E Renzo venne a risapere che s'era detto da più d'uno: «Avete veduto quella bella baggiana che ci è venuta?» L'epiteto faceva passare il sostantivo. E anche del dispiacere che aveva provato nell'altro paese gli restò un utile ammaestramento. Prima d'allora era stato un po' lesto nel sentenziare e si lasciava andar volentieri a criticar la donna d'altri e ogni cosa. Allora s'accorse che le parole fanno un effetto in bocca e un altro negli orecchi, e prese un poco più d'abitudine d'ascoltar di dentro le sue prima di proferirle. Non crediate però che non ci fosse qualche fastidioccio anche lì. L'uomo, dice il nostro anonimo, e già sapete per prova che aveva un gusto un po' strano in fatto di similitudini, ma passategli anche questa che avrebbe a essere l'ultima. L'uomo, finché sta in questo mondo, è un infermo che si trova su un letto scomodo più o meno e vede intorno a sé altri letti ben rifatti al di fuori, piani, a livello, e si figura che ci si deve star benone. Ma se gli riesce di cambiare, appena si è accomodato nel nuovo, comincia, pigiando, a sentire qui una lisca che lo punge, lì un bernoccolo che lo preme, siamo insomma a un dipresso alla storia di prima. E per questo, soggiunge l'anonimo, si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene, e così si finirebbe anche a star meglio. È tirata un po' con gli argani e proprio da secentista, ma in fondo ha ragione. Peraltro, prosegue, dolori e imbrogli della qualità e della forza di quelli che abbiamo raccontati non ce ne furono più per la nostra buona gente. Fu, da quel punto in poi, una vita delle più tranquille, delle più felici, delle più invidiabili. Di maniera che, se ve l'avessi a raccontare, vi seccherebbe a morte. Gli affari andava d'incanto. Sul principio ci fu un po' d'incaglio per la scarsezza dei lavoranti e per lo sviamento e le pretensioni dei pochi che erano rimasti. Furono pubblicati editti che limitavano le paghe degli operai. Malgrado quest'aiuto, le cose si rincamminarono, perché alla fine bisogna che si rincamminino. Arrivò da Venezia un altro editto, un po' più ragionevole. Esenzione per 10 anni da ogni carico reale e personale ai forestieri che venissero a abitare in quello stato. Per i nostri fu una nuova cuccagna. Prima che finisse l'anno del matrimonio, venne alla luce una bella creatura e, come fosse fatto apposta per dar subito opportunità a Renzo da adempiere quella sua magnanima promessa, fu una bambina. E potete credere che le fu messo nome Maria. Ne vennero poi col tempo non so quant'altri dell'uno e dell'altro sesso. E Agnese, affaccendata a portarli in qua e in là l'uno dopo l'altro, chiamandoli cattivacci e stampando loro in viso dei bacioni che ci lasciavano il bianco per qualche tempo. E furono tutti ben inclinati. E Renzo volle che imparassero tutti a leggere e a scrivere, dicendo che, già che la c'era questa birberia, dovevano almeno approfittarne anche loro. Il bello era sentirlo raccontare le sue avventure, e finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva imparate per governarsi meglio in avvenire. «Ho imparato», diceva, «a non mettermi nei tumulti, ho imparato a non predicare in piazza, ho imparato a guardar con chi parlo, ho imparato a non alzar troppo il gomito, ho imparato a non tener mano il martello delle porte quando c'è lì d'intorno gente che ha la testa calda, ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede prima d'aver pensato quel che possa nascere, e cent'altre cose». Lucia però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non era soddisfatta. Le pareva così in confuso che ci mancasse qualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa canzone e di pensarci sopra ogni volta, «E io?» disse un giorno al suo moralista. «Cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i guai. Son loro che son venuti a cercar me. Quando non voleste dire», aggiunse soavemente sorridendo, «che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene e di promettermi a voi». Renzo alla prima rimase impicciato. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono sì ben spesso perché ci si è dato cagione, ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani, e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, ci è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia, la quale, se non v'è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomodata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s'è fatto apposta.